A me è sempre piaciuto molto conoscere e approfondire la storia delle apparizioni della Madonna. C'è Lourdes che la conosco a memoria, Fatima abbastanza, Medjugorje un pochino. Mi è sempre piaciuto, però non ho anche altrettanto fatto fatica a capire quell'invito che la Madonna ha sempre fatto: pregate per i poveri peccatori. Cioè, lo capivo sì in teoria, ma mi sembrava una cosa lontana, astratta. Ebbene, stamattina, sentendo il libro dell'Apocalisse, capitolo 18, con questi guai, guai, guai, guai, mi toccava. I re della terra si sono prostituiti con Babilonia, con il potere, hanno vissuto nel lutto, nel lusso, piangeranno, si lamenteranno, guai, guai a te, Babilonia, città immensa, città possente. Anche i mercanti della terra piangeranno, perché nessuno più compra le loro merci. E fa un elenco che sarebbe la felicità di qualsiasi commerciante. Eppure i frutti che ti piacevano tanto si sono allontanati da te. Tutto quel lusso e quello splendore per te sono perduti. Guai, guai la grande città, ammantata di lino puro, di porpora, di scarlatto. Oh amici, come non fare il parallelo con la nostra Italia, che nel mondo è celebrata per la sua eleganza, per il suo stile made in Italy, per le sue sfilate, per i suoi gioielli, per i suoi patrimoni. Eppure, alla fine, tutto finisce. In un'ora sola fu ridotta a un deserto. A parte che questo può essere dietro l'angolo, La pandemia è stata solo un accenno. Immaginate, abbiamo gli arsenali pieni di armi nucleari, non ci fa più neanche effetto. Ogni tanto qualche film apocalittico ci fa inorridire a pensare the day after, il giorno dopo la catastrofe nucleare, ma al di là di quello c'è la morte, che è la nostra catastrofe nucleare. E poi invece leggi il Vangelo e dici e senti Gesù che dice: vado a prepararvi un posto, poi verrò e vi prenderò con me. Allora, amici, prendiamo questo invito che la Madonna ci fa di pregare per la conversione dei peccatori. A parte che lo diciamo, ma non ci crediamo, che anche noi siamo peccatori. Lo diciamo giusto per dirlo. Ma veramente ci spiace se amiamo il prossimo come noi stessi? Ci spiace vedere nelle nostre famiglie gente che fa questo percorso, vedere la nostra società che fa questo cammino, questa società così bella, così magnifica e così ingiusta, che dà a gente magari che non lavora 700 euro al mese e a pensionati o invalidi gli dà 200-300 euro al mese, dopo che hanno vissuto una vita lavorando, tribolando. Don, fai politica. Ah, si chiama far politica? Parlare di giustizia? Allora facciamo politica di giustizia, cari amici. preghiamo per la conversione dei peccatori che sono sia gli individui ma anche le nazioni. È giusto che da noi si parli di 3 vaccinazioni e domani si andrà avanti, perché crediamo mica che sia finita, e ci sono paesi che neanche hanno i soldi per avere la prima vaccinazione. Non sono peccati sociali, peccati mondiali, amici. E di fronte a queste cose cosa facciamo? Facciamo manifestazioni, quelle servono a molto. Di fronte a queste cose chiediamo: Signore, manda il tuo spirito e rinnova la faccia della terra. Maria, tu che chiedi di pregare per i peccatori, tocca i cuori dei singoli, perché il singolo può fare tanto, eh? Nella storia ci sono stati ricconi che hanno fatto tantissimo, tantissimo, e ci sono stati poveri che hanno dato la loro vita. Quindi il singolo è importantissimo, ma preghiamo anche perché le nazioni, i popoli, i poteri, quelli che si scandalizzano perché finalmente li tassano un pochettino nella nostra cara società occidentale, e poi dopo accumulano e la morte taglierà le gambe a tutti. Abbiamo pietà anche di questi amici, di questi fratelli, perché Gesù è morto in croce anche per loro. E partecipando a questa Eucaristia diciamo: Signore, ti preghiamo non solo per i nostri morti, non solo per i nostri vivi, ma ti preghiamo per questo mondo, perché tu che sei venuto a dare il tuo sangue contro il peccato, ancora oggi sparga il tuo sangue sui peccatori.